brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Sono un po' di giorni, anzi forse qualche settimana, che sto osservando con grande curiosità e attenzione, entrando alla radio a pochi metri dal portone Augusto di Radio 24, c'è un barbiere cinese, anzi una parrucchiera cinese. E la vedo lì, è velocissima, è sempre piena, perché mi sembra costi soltanto 5 euro. Con 5 euro fa di tutto. È un buchettino, una stanzettina, entrano vecchiette con la permanentina arricciolate, robusti signori, ragazzi, ragazze, fa un po' tutti. È un negozio molto scarno, ci sono pochissimi prodotti. Non ha nulla di quella poesia di arredamento dell'antico salone del barbiere. E soprattutto manca la cifra essenziale per cui si va dal barbiere, quella che è la caratteristica, quello che dà l'ambiente, quello che crea l'elemento più essenziale della sinestesia del barbiere, che è fatta di profumi, di palpamenti, di sensazioni di caldo e di freddo, di rumore di forbici, di sottofondo di radio, di musica, di chiacchiere, di odore e di lavande, che è quello della chiacchiera del barbiere. La parrucchiera cinese sta zitta perché parla cinese, dice pochissime parole e quindi c'è un silenzio di tomba in quella parruccheria. Però voglio entrarci perché sono curioso, perché ne ho provati tanti di barbiere, ho avuto una grande passione per il barbiere. Il primo barbiere era il barbiere al centro di Perugia, si chiamava Picilocchi, mi ci portava mio padre perché ci andava anche lui. Era un bellissimo salone di barbiere all'antica, tutto ricoperto di legno. C'era anche il cavalluccio di ferro dove ci sedevamo i bambini quando facevamo i capelli. Sullo sfondo c'era un bellissimo affresco al muro, un affresco Liberty, dove c'erano profumi orientali, fumigazioni, bagni turchi, odalische, e signore con il seno velato perché dava come l'impressione che lì dentro quasi delizie, quali delizie ci fossero. E c'era la porta del retrobottega, dove ogni tanto andava al barbiere con dei clienti. Io pensavo che chissà cosa ci fosse, in realtà seppi più tardi con grande indignazione che, essendo un po' all'antica, non essendoci ancora queste norme igienico-sanitarie così spiccate, c'era un lavandino dove andavano a fare la pipì perché non c'era il bagno, era un salone da barbiere, non c'era il gabinetto, quindi lui andava al bar accanto con la scusa di prendere il caffè, i clienti se gli scappava la facevano nel lavandino dietro, lo stesso lavandino dove sciacquava le forbici, sciacquava i pettinini, sciacquava tutti gli attrezzi, soprattutto i pennelli per fare la barba. Per lavare la testa c'era la vaschettina in metallo, che è una specie di bidet con le gambe rialzate all'antica, si metteva dietro la testa e lavava la testa così. C'ha queste manone da barbiere, però c'è sempre qualcosa di effeminato. I barbieri, è brutto dirlo per qualcuno che può avere delle pruderie di questo tipo, ma è un rapporto molto promiscuo. Nel negozio del barbiere c'è sempre una sorta di non detta, soffusa omofilia che galleggia, per quanto sia il luogo dove si rappresenta e si celebra il fiorfiore della virilità. I discorsi da barbiere vertono soprattutto sulle caratteristiche sessuali delle donne vicine e lontane, delle mogli degli altri e delle signore dei negozi accanto. Lì è il luogo delle vanterie, lì è il luogo delle vanaglorie, lì è il luogo dei miles gloriosus, delle fatiche amorose. In realtà, sai, sono sempre uomini che si lisciano, si ungono, si mettono le mani addosso, si fanno i pannicelli caldi, si fanno le frizioni. Siccome dopo un po' mi dà un pochino di senso, sentiste manone, cambiai e andai da una parrucchiera. La parrucchiera era meravigliosa perché faceva lo stesso lavoro, ma respiravi tutta un'altra aria, tutto un altro sapore. E soprattutto mancava nella parrucchiera quel luogo fatale dell'iniziazione all'adolescenza, che era il cassetto dei giornalini zozzi. Il cassetto dei giornalini zozzi era interdetto noi bambini. Quando venivamo i bambini ci metteva in mano due fumetti di tiramolla e ci metteva a leggere tiramolla. Ma vedevo che c'era un cassetto chiuso a chiave, che è il cassetto dei giornaletti zozzi. Ora, i giornali zozzi, ai tempi miei, quindi sto parlando degli avanzati anni 50, dei primi anni 60, erano ABC, che era un giornale anche molto importante, con una forte connotazione politica, però c'erano le donnine nude e ci sembrava di vedere queste bellezze polpose in bianco e nero che sorridevano, innocentissime. Oggi c'è molto di più all'interno di un qualsiasi giornale femminile. Ci sembrava che dentro quel cassetto ci fossero le chiavi di mondi che c'erano sconosciuti, che ci sembrava, nella nostra intuizione, che avessero qualcosa a che fare con l'affresco della Odalisca velata. velata, ma poi capimmo in seguito che era tutt'altra cosa. Partire da Savazzo, c'è molto da aspettare? Ma se non c'è nessuno? Come sempre. Allora che cosa mandate a fare? Sono domande che si dicono quando si vede un salone di barbiere, si dice c'è molto da aspettare. Ma com'è triste questo negozio, che tristezza in questo negozio. Noi ci metti il balletto, ci metto. Ah sì, ci metti il balletto. È il paese che è triste. È vero, a Roma invece la cosa è differente. In qualunque negozio di barbiere vai, tu trovi il comfort moderno. Si capisce. Radio, riviste, giornali, manicure. Ma quella giù. E non sono a Roma, in tutta la Romagna. Ma si capisce, altra gente, altra storia, altra stirpe, altro modo di pensare, c'è niente da fare. L'impero romagnolo è quello che è stato. Roma caput mundi. Abbiamo comandato il mondo, i romagnoli. E beh, ma perché sei andato a Roma tu? Sei romanese tu? No, io... E tu dici... Vabbè, ma siamo italiani, no? Beh, lo so. Dimmi un po', ti piacerebbe andare a Roma? Voi direte adesso cosa fai dal punto di vista del barbiere, questo era Totò Peppino e Fuorilegge, perché l'argomento questa mattina, l'avrete capito, è il salone del barbiere, il parrucchiere, la parrucchiera, il luogo dove ci si affida con il consenso, il plauso e il beneplace alla società a dei momenti di straordinaria intimità, di straordinaria disvelazione, momenti in cui ci si abbandona quasi in una sorta di fessura fuori dal mondo, quelle che molte volte io vagheggio, indico come unica possibilità di felicità. Beh, quella del barbiere è forse la più tollerata, la più tollerabile, e avvengono tantissime cose, e il barbiere e il parrucchiere e la parrucchiera, mi fa la differenza Maso Masotti, l'esperto in Umarels, dal barbiere ci vanno soltanto gli Umarels, gli altri vanno dal parrucchiere, è vero, soltanto gli omettini, soltanto gli anziani vanno ancora dal barbiere, anch'io se ci penso bene vado dal parrucchiere, io vado da un signore molto simpatico, napoletano, però mi capita a me di farmi fare i miei radi grigiastri capelli assieme a Rita Rusica e Linda Batista, non so, e tantissime altre dive dello spettacolo, perché è un parrucchiere che fa tutto, uomini, donne, io ci vado con la moglie, con i bambini, col cane se serve, fa di tutto, però essendo il luogo che ormai ha perso questa connotazione fortemente polarizzata in cui gli uomini parlano di uomini, le donne parlano di donne, gli uomini, non so bene esattamente quali sono i segreti della parrucchiera. Oltre al fotoromanzo dei ricordi miei lontani, non so cosa siano le parrucchiere. Beh, oggi esiste una sorta di omologazione anche nel luogo tiepido e riservato luogo e momento di fuga. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo portato Sansonna questa mattina perché noi parliamo di barbiere, parliamo di questo luogo residuo dell'intimità, della possibilità di manipolazione consentita attraverso il cinema. Il cinema italiano, la commedia italiana, il grande specchio della nostra società che con Sansonna ormai da vari mesi ne stiamo analizzando, si focalizza molto spesso nel luogo del barbiere. Perché quale incrocio è il barbiere? Il barbiere è un luogo cruciale per tanti motivi. Qui abbiamo sentito un frammento di Totò Peppino e Fuorilegge in cui c'è Peppino, mestissimo barbiere di provincia, che subisce il sadismo efferato di Totò, che poi nel seguito della scena gli sfascerà il negozio. E qui nel caso della provincia diventa il luogo del sogno di approdo nella grande città, nella Roma della dolce vita, in cui si emergeranno poi quei soldi della povera Titina De Filippo, insomma, estorti tramite un finto rapimento. Ma e quindi diventa sì, perché anche il luogo dove si consumano le velleità. Nel barbiere, molte volte dal barbiere c'era l'unico quotidiano che si vedesse in tutto il paese. Quindi si andava dal barbiere, si ci stravaccava su quelle poltroncine come ci si stravaccava sulle poltrone del casino fino a che fossero consentiti. Un luogo di soli uomini, si chiacchierava del più del meno e si leggeva e commentava l'unico giornale. Certo, era un luogo di attesa, di favoreggiamenti, di fantasticherie, in cui comunque ci si andava in momenti piacevoli per farsi belli, per migliorare la propria estetica, anche in vista di incontri amorosi molto spesso favoleggiati, quasi mai reali, e come dicevi prima tu, vantelie sessuali che venivano proposte, riproposte, insomma, racconti della sera prima che fra uomini costituivano una materia. Sì, nei casi più estremi il barbiere era anche il fornitore di piccoli presidi sanitari, essendo qualcosa che aveva a che fare comunque, nel suo armadietto della farmacia si potevano trovare anche oggetti d'emergenza per situazioni da affrontare da lì a pochi minuti. Questo si aspettava dal barbiere. Il barbiere era colui a cui si affidava la chioma che cominciava a incanutirsi, che nel miracolo del Renova permetteva di uscire bella e corvina come se fosse dei ragazzini. E poi il barbiere era anche in diverse situazioni, per esempio nell'immaginario cinematografico, quello legato alla Sicilia, alla mafia, era il luogo in cui si ci si confrontava sulle strategie sotterranee mafiose del paese, dove si uccideva la vittima, dove si uccideva abbassando la serrana all'improvviso, il barbiere complice girava la poltrona girevole e favoriva l'impatto col proiettile fumante del sicario di turno. Questo è stato molto nell'immaginario. Allora, a me piacerebbe questa mattina avere telefonate da barbiere e da parrucchiere. Io sono convinto che nel basso continuo di sottofondo dei tantissimi luoghi dove questa mattina in Italia qualcuno sta mettendo le mani in testa ad altre persone e sta cercando di passare nel miglior tempo possibile il tempo durante questa attività, qualcuno sentirà Radio 24. Ecco, mi piacerebbe, e probabilmente sarei anche disposto a regalare libri infami o qualunque altro gadget loro desiderino, a barbieri e parrucchiere o luoghi comunque in cui si facciano attività simili, questa mattina ci sentono. Chiamate 800 24 00 24. Intanto sentiamo Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Ecco, lei è il primo barbiere che chiama. No, io non sono un barbiere, sono andato però ieri da un barbiere, uno degli ultimi tre pare che ci sono in Italia. Come gli ultimi tre? Ognuno dice sono l'ultimo. Dove sta? Infatti stava a Città Vecchia, siccome era per lavoro, vado in giro, mi faccio i capelli dove capita, quindi può capitare nel Lazio, voglio dire. Quindi lei è un nomade del barbiere, un nomadismo barbieristico? Difatti una volta sono stato pure in Thailandia, a Bangkok, ho fatto i capelli, ovviamente un parrucchiere, erano tutte persone sedute e io pensavo che aspettavano, invece ogni persona praticamente era un barbiere che aveva una poltrona in affitto. E quindi mi sono seduto, mi hanno messo il gel, mi hanno fatto i capelli neri cinesi praticamente, da riccio mi hanno fatto da riccio. Ma gli hanno anche tinti? Sì, perché ho chiesto il gel, siccome non parlavano né inglese né niente, sono stato olandese, sono usciti, sono andato a comprare questa specie di pomata che loro si mettono per tingere i capelli e se mi fanno luci. Sì, sarà lucido la scarpa. Cioè, e praticamente sono diventato un cinese, insomma, un po' più gonfio. Così. È bellissimo. Deturpato per sempre, insomma. E quest'ultimo barbiere di Città Vecchia cosa dice? Come rivendica la sua... Perché all'ora di pranzo avevo un po' di tempo, ho capelli che avevo cresciuto incredibilmente, io vado e faccio i capelli in qualsiasi posto. Quindi ho trovato, invece del parrucchiere, sono andato dal barbiere. E quindi lui mi ha detto, cioè, no, perché siamo messi in 3-4, di barbiere ormai non ci sono più praticamente. E quindi c'era sto cavalluccio, appunto. Ah, il famoso antico, cavalluccio. Il cavalluccio di ferro, dove andavo pure. È che oggi, se un bambino uno gli mette il cavalluccio, non nemmeno lo riconosce come qualcosa riconducibile ai suoi giochi, ci vorrebbe magari, non so bene, non so, una motociclettina o non ho capito cosa. Non so, mi piacerebbe capire qual è l'evoluzione del cavalluccio. Il cavalluccio poi era terrificante. Adesso mio figlio gli hanno portato praticamente ho fatto i capelli ultimamente, aveva un pettine a forma di pistola al barbiere. Sì. Un pettino a forma di pistola che sta pure, tra l'altro, ho visto pure ultimamente su internet, per come gli oggetti inutili, e gli ha dato questa pistola a forma di vetta e lui giocava intanto gli faceva i capelli con questo pettino, però niente di più. La poltrona era sempre quella con dei cuscini per farla alzare, perché siccome è piccolino, e quindi per farla alzare, però non c'era né cavalluccio né niente, l'unico giochetto è questo pettine a forma di pistola, insomma. Sì, poi c'è l'evoluzione delle poltrone da parrucchiere. Certo. Oggi il parrucchiere non ha più la poltrona come una volta, con tutti gli accessori, con il poggiatesta, con la cartuccella cambiabile. Oggi sono delle sedioline di fine design, perché molti addirittura i capelli li fanno in piedi alle signore. Io ho visto appunto queste dive dello spettacolo stare in piedi, perché tagliare i capelli in piedi pare che sia qualcosa che appartiene comunque ai tempi contemporanei. Io un gentiluomo sono, non uno sporco barbiere come te. A me sporco barbiere, lasciatemi! Benché cugino carnale, t'ammazzo lo stesso! Lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi! Agliaccio! Non vedi che ti hanno lasciato? Come mi hanno lasciato? Uè, ma che mi volete mandare in galera? E sentimi bene tu! È vero che sono un cafone, un barbiere come dici tu, ma sono anche un uomo e ho l'arma da uomo, il rasoio. E tu, Cicisbeo, cosa opponi? Questo ferro da ricci, sì, che non taglia e non punge e che io spezzetterò con la mia mano? Ah! Ah! Brucia! Acqua! Acqua! Sono il muzio scevole dei barbieri! Ecco, Giuseppe, cosa sta succedendo? Allora, questo è il film I Barbieri di Sicilia di Marcello Ciorciolini. Qui abbiamo Franco e Ciccio all'apice del loro pupismo siciliano, cioè come due pupi appunto si confrontano in una cavalleria rusticana a colpi, l'uno del classico rasoio antico, la Buñuel tipico dei barbieri, e l'altro con Ciccio, che è il parrucchiere, quindi ha la macchina per i ricci, quindi c'è questa sorta il ferro arroventato. E quindi questo confronto, questo duello che si apre proprio fra due sistemi di pensiero, fra due mondi, che poi si conclude con questa gag in cui la mano, la muzio scevola dei barbieri, la mano del povero Franco diventa ustionata, insomma, questo è appunto il giocare con l'immaginario cinematografico, se in Sicilia era il barbiere, era il luogo appunto della mafia, e qui diventa molto più giocoso, insomma, il luogo legato a questi, a queste due grandi figure del cinema italiano. Cominciano ad arrivare delle segnalazioni. Fabiano mi segnala in via della Frezza una bottega a Roma, una bottega di Antonio Raffaele, barbiere a Roma dal 58. Fino a 10 anni fa avevano un negozio anche a Piazza del Popolo. Hanno raccolto testimonianze di tutti i protagonisti della dolce vita. Andare da loro è un'esperienza culturale strepitosa. Bello che a Roma sembra che il mondo sia fermato con la dolce vita. Ancora parliamo della dolce vita, sì, che fu un momento limitatissimo, soprattutto totalmente immaginario, una fantasia più inventato di che reale. Chi certo viveva in quegli anni a Roma non sapeva ci fosse la dolce vita via Veneto, certo, non c'era nulla di dolce, eppure ancora viviamo in questo allo stesso mito. Fellini era ironico nel chiamarla dolce vita, che è amarissima in realtà quella vita, insomma c'è uno sfondo molto amaro. Abbiamo al telefono Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Giuseppe, di chi io devo dire anche il cognome, perché in realtà sì, lei, lo posso confessare, è lo zio di Sansonna, che si è portato dietro lo zio. Ecco, sì, lei dove sta esercitando la sua professione di barbiere? Io la professione esercito a Torino, a Borgo San Salvario, vicino a stazione Porta Nuova. A fine anno sono 40 anni di attività nello stesso posto. Lei da 40 anni sta a Torino, che dall'accento intuisco che non è proprio torinese. Beh no, l'accento no, è tutta un'altra cosa. Però mi trovo a Torino da 40 anni. Esercito l'attività sempre allo stesso posto da 40 anni. Però è cambiata la clientela in 40 anni, immagino. Beh, sì, si è trasformata tantissimo, diciamo, anche la zona, i negozi, tutto trasformato nell'arco degli anni. Lei è partito perché sapeva fare il barbiere, è andato a Torino a cercare lavoro, ha cominciato a fare il barbiere, immagino. Sì, sì. E non ha avuto nessuna difficoltà di inserimento, di... Beh, insomma, sono successe delle cose, diciamo, mi sono inserito abbastanza facilmente, però delle cose ogni tanto venivano nei pensieri di andare via di nuovo e tornare a casa, però per il lavoro sono rimasto. Ecco, e come è cambiata la clientela? Adesso a chi taglia i capelli? Come taglia i capelli? Si è evoluto negli anni? Lei o fa sempre lo stesso taglio che faceva al paesello 40 anni fa? Negli anni 70, 80, vicino agli anni 90, l'Italia era l'Italia dei capelloni, la moda dei capelloni quegli anni lì. Poi piano piano siamo andati sui capelli corti, cortissimi, molto corti, per via degli extracomunitari, che la maggior parte gli arabi portano i capelli cortissimi. Lei lavora ancora con la macchinetta, immagino? Beh, diciamo che da 15 anni, 20 anni in qua, adesso sì che si lavora tanto con la macchinetta, però non tanto, perché diciamo la clientela si è un po' selezionata, perché ci sono tanti negozi anche di extracomunitari. Cioè i cinesi, i famosi cinesi? I famosi cinesi, diciamo egiziani, marocchini, loro tagliano i capelli a zero proprio per tutti, però... Siccome qui ci sono anche sudamericani, rumeni, che loro non portano i capelli a zero, allora la clientela viene selezionata. I rumeni come li vogliono i capelli? I rumeni sudamericani li vogliono come noi italiani, un taglio normale, non azzerare intorno che sembrano, diciamo, con la pelle di fuori. È più un taglio classico. Sì, ma lei usa la macchinetta, quella che non esiste più, a mano, o quella elettrica? Adesso si usa macchinette elettriche. Però non, diciamo, si può usare anche la macchinetta elettrica, però senza farla a zero. E la sfumatura come la fa? Con la forbice? Poi da fare il taglio classico con la forbice. Cioè lei sa fare la sfumatura a punta di forbice? Sì, sì, sì. Eh no, sì, perché non la sa fare più nessuno, non è una cosa... Cioè il mio parrucchiere è bravissimo, l'ho detto, fa i capelli a Linda Battista e non so quante altre, però la sfumatura in punta di forbice mi guarda e dice cosa è. Sì, sì, ma ci fa ancora, diciamo, c'è gente che preferisce essere fatto un taglio di capello a forbice. La tintura la applica? Sì, sì, sì, sì, sì. Ma cosa si usa? Il Renova, quella cosa lì nera che si usava una volta? O c'è qualcosa di nero? No, ci sono le tinture, diciamo, tradizionali che si vendono oggi, che si fanno, diciamo... Gli stranieri li tingono i capelli? Beh, la maggior parte sono più stranieri che tingono i capelli degli italiani, specialmente il sudamericano ci tiene molto ad avere i capelli neri e non i bianchi. Loro ci tengono proprio la loro... Vogliono essere sempre neri, neri, neri, neri. Sì, no, suo nipote, non... fallo la domanda a suo nipote, Giuseppe. Zio, sì, zio, ma racconta, Gianluca, cos'è che hai appeso nel negozio? Perché... Allora, io ultimamente, ultimamente da un paio di mesi più o meno, ho messo una carta geografica del mondo che mi volevo segnalare tutti i clienti che mi sono passati. Fino adesso ho calcolato che ho 40 nazioni che sono passate 40 di qua. Etnie diverse che lei, a cui lei ha messo le mani nei capelli. Ok, sì, giusto. Un risico praticamente, ha fatto una sorta di... E cosa le manca alla collezione? Ce n'è ancora, perché diciamo, sono passate delle persone, però non avevo ancora la carta geografica, non avevo segnalato... Non ha fatto in tempo a segnarli? E non ho fatto in tempo a segnalarli, ma adesso piano piano, col tempo, come arrivano le nuove persone... Faccio segnalare la loro bandiera da dove arrivo. Ma valgono i punti come fossero le figurine, che ne so, un senegalese vale no, 5. Diciamo, io mi segnalo che di questa nazione, che è arrivata da questa nazione, ho segnalato che è passato qualcuno di questa nazione. Adesso io non metto quanto. Però i cinesi non mi dica che vengono a farsi i capelli da lei. Beh, qualche cinese è venuto pure. È per rubare il mestiere, come in Gomorra. No, vengono proprio per fare i capelli, perché li conosco da tanti anni, prima che arrivassero il loro paesano ad aprire i negozi. Adesso è concorrenza abbastanza forte, perché con 5 euro fanno tutto. Ah sì, beh, poi lì è un discorso, dipende dalla persona cosa pretende quando va in un posto. Si può andare a mangiare con 5 euro, si può andare a mangiare con 30 euro. E questo dicono tutti i barbieri di una volta. Melog 2.0. Ma non mi invecchieranno? Le mesh? Ma scherza! Se le fanno tutte le vecchie per sembrare più giovani. Non che lei sia tanto vecchia, ecco, cioè, se le fanno anche le giovani per sembrare più carine. Sì, buonasera. Fa anche le mani, vero? Sì, sì. Lei che smalto... Stiamo parlando di barbieri e parrucchiere, stiamo parlando di luoghi in cui il tempo si ferma, in cui si esce dal tempo. Questa era Stefania Sandrelli, io la conoscevo bene, Giuseppe Sansonna. Contestualizziamo anche questa pièce che abbiamo mandato. Lei è la giovanissima Stefania Sandrelli, che fa da parrucchiere, poi da manicure, e vive l'approdo dalla campagna pistoiese a Roma come il sogno di diventare poi un'attrice, ma verrà travolta, lacerata dalla vita, dagli incontri con uomini truffaldini ed efferati. E qui appunto ancora una volta il negozio di parrucchiere diventa anche il posto da cui decollare per sognare un altrove immaginario, per sognarsi attrici, per cambiare il volto, cambiare i capelli e cambiare anche dimensione. Questo veniva sia per uomini che per donne, c'erano gli abitué, c'erano le persone che passavano e ripassavano, c'erano quelli che andavano anche per non farsi nulla, c'era chi andava soltanto a farsi la barba, perché sembrerà strano, ma fino a pochissimo tempo fa la barba molti andavano a fare la mattina dal barbiere, non ci si faceva a casa in pochi minuti. Leggo da Facebook, che sembra un luogo in cui la memoria sembra sorpassata dalla velocità, dalla capacità di mettersi in relazione, di parlare di pensieri contemporanei, ma in realtà anche crogiolo di pensieri antichi. Per Giuseppe dice: dal mio barbiere Romagna si spettecola sulle coppie clandestine, si va avanti a oltranza, però da un barbiere a Sanremo, che invece è una specie di social network. Se entro io, che sono di origine romagnola, telefona l'ingegnere di Milano, che ha una compagna di Ravenna, per farci conoscere, così pure il commerciante di bibite con l'ex ristoratore in pensione. Insomma, cerca di mettere insieme i clienti per affinità. Barbiere e social network. Piera: mi accontento di una maldestra ma simpatica parrucchiera di paese, perché detesto le botteghe fighette, quelle che ti propinano il famigerato massaggio, fanno finta di preoccuparsi del tuo benessere, poi ti rompono le palle con cremine, balsami e schifezze varie. Poi ragazzo spazza, un altro ascoltatore: da un barbiere per anni, negli anni 70, ascoltando racconti di fantasmagoriche prestazioni sessuali, seguivano viaggi al bar di fianco per procurare vov ai millantatori e sbirciando, questa è la subletteratura da barbiere, i caballero nascosti strategicamente sotto il phon, in modo che il cliente potesse approvvigionarsene senza chiedere esplicitamente. Il caballero è stato uno dei primi fumetti porno che esistesse in Italia, nascondendo sotto il phon una sorta di self-service. Poi, Serena: la mia parrucchiera è discreta ma mi sbircia, se è il caso invece di far conversazione mi lascia leggere Novella 2000 e poi il ragazzo che mi lava i capelli mi fa svenire dal piacere. Il suo socio e coniuge invece porta un parrucchino riccio, mio marito, che non ne aveva idea, una volta gli ha fatto una sincera concione sul fatto che gli uomini con la parrucca proprio lì non li capisce. Francesco è figlio di un barbiere, mio padre era barbiere in un piccolo paese, per fare la pensione a mia madre rilevò dall'ufficio postale la rivendita dei giornali il massimo. Quindi sono cresciuto tra tiramolla, ABC, Rinova, Proraso, crema da barba alla mandorla, dopo barba Floyd, tutti gli avvenimenti del mondo del paese sono passati di lì. Patrizia, buongiorno. Buongiorno. È una ex? Sì, io sono una ex parrucchiera. Premetto che ho fatto la parrucchiera per dispetto ai miei genitori, avrei voluto fare la veterinaria, ma avendomi iscritta al liceo classico mio padre, io per guerriglia sono andata a lavorare. Non ho mai saputo nulla di ciò che accadeva nel centro storico di Como, dove avevo il mio negozio. Il mio negozio era un salotto dove ci si radunava ragazzi, donne, uomini, amanti, a ridere, parlare di moda, di politica, di sport, di eventi. Beh, era molto sui generis, però, per essere era molto, un parrucchiere molto di provincia. Generis. E di solito quando non sai qualcosa o hai bisogno di trovare un ufficio, entri dal primo parrucchiere e ti dice anche il numero delle stanze. Quando entravano da me, sia io che le mie dipendenti, ci guardavamo, ma il notaio non lo so. Quindi voi eravate fuori, completamente fuori dal mondo, pur avendo un vostro mondo all'interno del negozio. Sì. E la cosa bellissima in quegli anni che io ho avuto il negozio dal 1900 lontano 83 all'88, in quella zona del centro storico di Como bellissima, nel pieno dell'estate, giugno, luglio, agosto e perché no anche magari maggio, non si poteva passare perché ci divertivamo tantissimo a tirarci i gavettoni, a tirar fuori la canna dell'acqua. Ma ogni tanto facevate i capelli alle persone o... Quando ne avevo voglia, se avevo l'estro. Beh, quindi era ricca di famiglia, beata lei. Io? No, non ero ricca. Ma di cosa mangiava, scusi? Mangiavo di quanto bastava, ma c'avevo le lavoranti che lavoravano. Ma lo stipendio lo avrebbero, a fine mese doveva darlo anche a loro, penso. Le lavoranti lavoravano, ho detto, Nicoletti. Sì, si lavorava lì dentro, quindi i capelli li faceva. Si lavorava anche, d'estate si lavorava molto alla sera, dopo cena? Dalle 18 alle 22 il nostro negozio si riempiva e si facevano i capelli, ma durante il giorno ci si divertiva e mai spettegolezzi, mai. Sta raccontando un luogo che, di cui non conoscevo e non immaginavo l'esistenza, che è la contraddizione di tutto quello che abbiamo detto, e mi fa piacere che esistano anche i contrasti. Sansonna. No, io volevo spendere due parole su mio zio, perché che abbiamo sentito prima, lui è appunto da... Che conferma tutti gli stereotipi, tuo zio. Sì, lui dalla sua vetrata, da quadro di opera, la sua ampia vetrata sotto il suo cilindro rotante colorato, ha osservato 40 anni di evoluzione, di cambiamenti del melting pot di San Salvario, che è la zona vicina alla stazione, quindi lui ha visto di tutto, ha assistito a scene appunto filmiche, anche violenze, esplosioni di follia varie, insomma. E uno dei suoi clienti più affezionati è quello a cui ho dedicato tempo fa un documentario, che era questo truffatore del gioco delle tre carte, che anche lui ha questo rito di andare tutti i giorni da lui e raccontare le sue prestazioni sessuali, che finiscono sempre con lui attaccato a questo lampadario che fa l'acrobata del sesso, insomma, così. Sì, sembra difficile oggi anche agli ascoltatori maschi che ascoltano che esista un luogo così spiccatamente, macroscopicamente fuori dal mondo, inesistente, in cui gli uomini celebravano i loro ridicoli a volte e anche teneri rituali di virilità proclamata ma probabilmente mai realizzata realmente, concretamente. E attacca la canzone, attacca un blues, insomma, come fa sto cazzo di blues? Ancora non ha capito che io quando devo operare ho bisogno di un blues, io faccio lo barbiere per buttare lo ritmo, perché lo barbiere, innanzitutto lo barbiere è sempre stato un musicista, i mandolini, le chitarre, anche papà Pricene che teneva la barberia, teneva la chitarra, lo mandolino sapeva suonare. Mo faceva la musica moderna e teniamo il ritmo, perché là di mestiere io faccio un barbiere per buttare il ritmo, perché io sono artista dentro. Lì barbiere tengono il ritmo, là di mestiere no, l'ufficio non tengono il ritmo, l'ingegnere non tengono il ritmo. Come fa a buttare il ritmo l'ingegnere quando fa le palazze? Lo scienziato non può buttare lo perfino lo farmacista come fa a buttare il ritmo? Lo barbiere può buttare il ritmo, vedi, pide lo rasura e porta il ritmo, guida. Jazz, oui. Giuseppe, questo è Renzo Arbore, fa un barbiere sui generis, un barbiere con aspirazioni di tipo artistico. Ma sui generis fino a un certo punto, perché nel sud e non solo, i barbieri erano spessissimo legati alla musica, perché compreso mio zio suonava il clarinetto, nelle lunghe pause o nei momenti ci si trasmetteva, oltre all'arte di tagliare i capelli, anche l'arte di suonare, mio zio appunto il clarinetto. Qui Arbore in Odore di pioggia di Nico Cirasola, che mi ha segnalato un amico cinefilo, Lorenzo Procaccio Leone, E qui racconta appunto il suo rapporto particolare con la musica, col modo di utilizzare questi tempi morti per apprendere a suonare uno strumento. Alessandro Alessandroni, che è il fischio storico della storia del West, ha imparato a fischiare e suonare la chitarra. Quello dei film di Sergio Leone. Quello dei film di Sergio Leone, nelle barberie di Bagnaia del Viterbese, dove è cresciuto lui, perché c'era un legame strettissimo. Sì, c'erano i tempi morti, diciamo, perché la giornata era organizzata. La mattina c'erano abbastanza clienti, poi il cliente scemava, poi tornavano verso il pomeriggio. Il sabato c'era molta gente, ma immagino delle giornate vuote, desolate, nei giorni di pioggia, nei giorni di mercato, nei giorni in cui le persone non andavano dal barbiere. Gabriella, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Lei ha un trauma da barbiere? Esatto, io ho un trauma da barbiere. Allora, io ho 70 anni, abito a Pisa e diciamo che in quel tempo abitavo, quando ero molto piccola, vicino alla Torre di Pisa, ma in realtà però extramenia, cioè fuori le mura, quindi poteva essere considerata campagna la nostra. C'era anche un cimitero lì una volta? Sì. Cimitero all'interno però del, diciamo, della zona. No, lo dico perché è una cosa singolare. C'è una pompa di benzina e nel sì. piazzale della pompa di benzina ci sono ancora le tombe. Lo ricordo sì. perché una volta degli amici miei pisani, per farmi uno scherzo, sì. mi portavano sì. a fare una passeggiata di notte lì. Dice: lo sai che lì c'è un cimitero? Ci andai. Mi fece uno scherzo, mi fece trovare sì. una lapide con la mia foto sopra e con il mio nome. Oddio mio, una cosa veramente. No, era divertente perché c'era la mia. Cioè, camminando. Improvvisamente mi trovai dentro un cimitero. Dalle pompe di benzina non c'è. Sì. Beh, è una follia, c'è ancora. No, la pompa di benzina non c'è più. C'è un parcheggio, non so, c'è un posto. Diciamo ci sono dei parcheggi, però lei forse ha visitato il cimitero ebraico. No, un cimitero abbandonato, vero? C'era anche la mia tomba dentro, mi ricordo. Per lei cosa ha fatto il barbiere? Allora, ai miei tempi, subito dopo la guerra, succedeva questo, che il barbiere veniva a farci i capelli a casa. Siccome eravamo in una corte, praticamente li faceva a tutti, certo, si risparmiava. Ai bambini, agli uomini, faceva la barba, i capelli. E, allora, il mio trauma è stato questo, che mi tagliava sempre questi benedetti capelli alla maschietta. Cioè, una cosa veramente terribile per una bambina avere questi capelli alla maschietta. Lo so, lo sa, si faceva per risparmiare, lo sa meglio di me. Certo, perché, certo. Con la macchinetta faceva tutto. Quando però lo vedevo io mi dovevano, diciamo, venire a prendere, perciò correvo per tutta la corte, assolutamente non volevo che questo barbiere mi toccasse i capelli. E la inseguiva però, e la tagliava tutte. Di questo ha avuto grossi traumi, ma dicendo: ma in fondo sai, con i pidocchi che girano è meglio averli corti, si controlla meglio. Ahimè, la iattura d'essere nato in anni tristi. Oggi i bambini, le bambine vanno dalla parrucchiera e si fanno i ricci, i boccoli, la tintura, le mesh ugualmente e esattamente come se li fa la madre. Melog 2.0. Ma brasiliano, dà una mossa con sto cazzo di shampoo. Ah, questo, questa è la saudade. È la saudade allo estrangeiro do Brasil. È che da sala, da sala. Te piglia dentro o ventre, o bacino. E o bacino se muove. Arriva da saudade, è sala, sala, sala. È o coração do Brasil. Ma perché non ci sei rimasto in tuo Brasil? Ci torno! Ecco, bravo, Don, diciamo, prima finisci da lavare manca boccia, te prego. A me questa musica sembra tutta uguale. Ah, no, ingegnere, ma te? Issa, ma una musica particolare che viene dentro dai vici, solo, ti prende dentro, a saudade ti piglia l'anima. L'anima devi morire. Allora, bello! Stavo chiarmi, 800 24 0024, stiamo dandovi piccoli baluginì di immagini di barberia raccontata nel cinema di genere italiano, nella commedia italiana in questo caso, a Diego Abbatantuono, il barbiere di Rio. Giuseppe Sansonna ci aiuta in questo viaggio tra barbieri veri, barbieri presunti, barbieri ricordati, allucinati, interpretati e ricordi di famiglia, perché si è portato dietro anche lo zio barbiere che sta a Torino e taglia capelli a persone di tutti i paesi. Giuseppe, barbiere di Rio, due parole. Il barbiere di Rio è Abbatantuono, che parla questo stranissimo pastiche. È un milanese meridionale però trapiantato a Roma, che con la passione del Brasile. E qui questa storia la conosco bene, perché il mio barbiere ha vissuto, è lo stesso di Veronesi, che ha sentito questa storia di questo barbiere che da Roma partì e andò in Brasile a imparare, a insegnare anche l'arte della barberia, e poi tornò in Italia e da lì è nata poi la storia del film. E qui c'è una Abbatantuono che ci riporta alla dimensione del sogno erotico, tipiche dei barbieri, anche che si rivede nei loro poster attaccati, nei poster esotici, poster di donne molto discinte. Insomma, c'è sempre lì questa dimensione della proiezione in un altrove e del desiderio. Questo è. Aldo, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Le ho un ricordo datato, un'epoca storica particolare e precisa. Tanto storica no, ma volevo porre l'accento sulla complicità che si instaurava con il barbiere di famiglia, che per quanto riguarda la mia adolescenza, per qualche caso, ha influito anche su una parte della mia educazione. Allora, si parla degli anni in cui c'erano i capelloni, no? In cui i capelli lunghi era la contestazione della società allora attuale. Allora. Sì, c'era questo segno esteriore che era molto esatto. Preciso. I ragazzi per bene facevano la sfumatura come i padri, quelli che volevano contestare, comunque erano contro, si lasciavano crescere i capelli, hanno visto un grande disprezzo, voi capelloni. Mio padre, buon'anima, mi portò imperiosamente dal barbiere e disse tagli i capelli a questo e fagli la sfumatura alta. Certo. Diciamo che il barbiere, con una complicità... Capisce il dramma? Capisce il dramma e con cercando un compromesso mi fece la famosa zazzera e le basette un po' più lunghe. La zazzera e la riga dietro il collo, insomma. E così andò bene. Primo episodio. Secondo episodio. Un giorno feci filone a scuola e il preside non mi fece entrare se non accompagnato dal padre. Io andai da questo barbiere e lui, fungendosi come mio padre, mi accompagnò, mi fece entrare a scuola, difendendomi quindi dalle ire del mio genitore. Ah, quindi si prestò, vabbè, simpatico. Certo. Terzo episodio, piccolo episodio. La prima volta che mi fece la barba, stette molto attento a farmi la barba sul taglio dritto, in modo che la barba non crescesse, insomma, non fosse poi difficile rasarla. E alla fine, quando mi mise i vari profumi all'epoca, insomma, tipo era Floyd, queste cose qua. Esatto, bravo. È una cosa arancione con un omettino con la sfumatura sopra. Esatto. E la pompetta sembrava un chisterino. Esatto. E allora mi disse, adesso, la prima volta che io facevo la barba, adesso sei un uomo. E io, siccome ero minorenne, di soppiatto mi regalò uno di quei calendarietti che portavano delle attrici nude. Ci siamo arrivati. Bikini, eccetera. Gli almanacchi profumati che dovevano essere consegnati solo ai maggiorenni. E di soppiatto lui mi disse quello. E io me ne uscii inorgoglito da quelle cose. Ecco, lo descrivo velocemente perché chi ha meno di 50 anni non sa nemmeno cosa siano. Tra le carte polvere che danno segni dei costumi, l'almanacco profumato del barbiere era un piccolo calendaretto piccolo, con una bella nappina di seta, con un piumettino, era dentro una custodia di carta trasparente, profumatissimo. Si apriva, c'erano delle pin-up semi-nude, nude, così. Ogni mese dell'anno c'era una donnina nuda. Si metteva nel portafoglio, profumava il portafoglio, era un segnale di complicità fra maschi, non serviva a nulla praticamente. Ci si scambiava fra maschi, si guardavano queste donnine, a seconda delle epoche, erano più o meno scollacciate. Quindi l'iniziazione all'età adulta era il permesso di avere il calendaretto con le donnine nude, che si dava solo ai padri, o li prendevano i padri di nascosto senza farsi vedere dai figli. Era una sorta di... metafora consentita di adulterio, si nascondevano nel portafoglio, non facevano male a nessuno. Gianni, ok, ciao, eccomi qua. Gianluca, ascoltami, ho 62 anni, andiamo indietro di 50, 1960, un paesino della Bassa Ferrarese, 1500 anime, l'unico barbiere del paese, ce l'avevo vicino casa. Quando andavo a tagliarmi i capelli, 12 anni, mi diceva, mi vai a prendere le pastiglie per la tosse, sai cos'erano? Stop senza filtro. E poi andava al bar, si andava a fare un Campari, tornava, ti metteva su questa sedia che l'alzava perché ero piccolo, poi ti metteva il lenzuolone addosso e ti sputava in faccia il fumo della Stop con il gusto del Campari. Era una cosa oscena, però avevo 12 anni e la sopportavo. Quindi ti ricordi questo, questa sorta di esempio? La bottega del barbiere, così come l'avete descritta voi, con ABC, con lo stadio, la Gazzetta dello Sport, si parlava di sport, si discuteva di tutto. Io avevo 12 anni, poi dopo crescendo, negli anni 70, si andava al sabato mattina e si stava lì mezza giornata. Ecco, senti invece, grazie, ma vorrei sentire, proprio che siamo proprio in chiusura, Lorenzo ha fatto il barbiere in un luogo molto particolare. Non ho fatto proprio il barbiere, ho avuto modo di collaborare in questo luogo particolare che è la Camera dei Deputati. Ah, non eri il ragazzo spazzola della Camera? No, ho collaborato con il, ma ho visto quello che è accaduto e spesso, soprattutto nella Prima Repubblica, si verificava che le notizie di prima mano su quello che accadeva in politica passassero proprio all'interno del barbiere. Perché dal barbiere i politici parlavano della prima Repubblica. Parlavano, e ricordo il caso di un parlamentare meridionale, un caso triste direi oggi, ma insomma con un po' di colore, che era certo di fare il sottosegretario e la mattina era venuto tutto vestito pronto per il giuramento, ma apprese proprio della sala del barbiere della Camera che il suo nome era saltato. Quindi luogo di pettegolezzo politico, naturalmente quando c'erano certe liturgie che adesso in politica sono meno praticate, quindi questo accadeva. Ci si vedeva dal barbiere della Camera. Grazie di questa ultima importante significativa testimonianza di un rituale antico che abbiamo questa mattina riportato alla luce, che rimaneva in un luogo in cui i rituali antichi ancora danno senso dell'esistenza di tante persone e anche di tante istituzioni. Grazie Giuseppe Sansonna, grazie al professor Alessandro Chiappini e grazie anche a Fabrizio Intonti. Ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.